Ai sera nanni neme ne sagliette, tu sai a do. Tu sai a do. A do sto cuore in grado chiudi spiette, farme non può. Farme non può. A do lo fuoco coge massi buie, te lascia sta. Te lascia sta. E non te corra presso ma si struie sulla guardà. Sulla guardà. Yamma, yamma, ngappa, yamma, ya. Yamma, yamma, ngappa, yamma, ya. Curi, curi, curi, cura, curi, curi, cura. Ay, ngappa, yamma, ya. Curi, curi, curi, cura. Yamma, yamma, yamma, ngappa, ya. Ne amo dalla terra a montagna, non passa in cielo, non passa in cielo. Se vede Francia proce dalla Spagna, io vengo a te, io vengo a te. Tirate con le fune, nitte in patto, in cielo se va. Se va come alla vienda l'andra satto, che sa, che sa, che sa. Yamma, yamma, ngappa, yamma, ya. Yamma, yamma, ngappa, yamma, ya. Curi, curi, curi, cura. Curi, curi, cura. Ngappa, yamma, ya. Curi, curi, curi, cura. Yamma, yamma, yamma, ngappa, ya. Yamma, yamma. Ah!